Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Tutto ha inizio nel 1954, quando Ray Kroc, un venditore di frullatori elettrici multimixer, decide di recarsi presso un ristorante di San Bernardino, California, di proprietà dei due fratelli McDonald, per capire come mai vi fosse una così alta richiesta del suo modello per preparare i frullati. Rimane talmente entusiasta della loro semplice e geniale gestione imprenditoriale che poco dopo si offre di diventare loro agente. Dopo un anno Ray Kroc apre il primo ristorante McDonald's a The Plains, nell'Illinois. Siamo nel 1955 e il clown dei capelli arancioni fa il suo ingresso ufficiale, anche nei media. Introducing the world's newest, silliest and hamburger eatingest clown, Ronald McDonald. Now where is that clown? Oh, Ronald, Ronald, Ronald. Hey, Ronald. Here I am, kid. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Ronald, you can't be on TV and watch it at the same time. Now, come on and meet the boys and girls. Oh, we've already met. I know we're going to be friends, too, because I like to do everything boys and girls like to do. Especially when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. McDonald's hamburgers, french fries, and milkshakes. Watch for me on TV. We'll have lots of fun. In Europa il primo McDonald's si apre nel 71 ad Amsterdam in Olanda. 20 anni più tardi crolla anche la muraglia cinese, all'interno della quale oggi si contano più di 250 Mai Dong Lao, parola che imita la fonetica di McDonald's. E dopo un mezzo secolo sono più di 30.000 i ristoranti McDonald's in tutto il mondo. Impegnano 1,5 milioni di persone e servono più di 46 milioni di clienti ogni giorno. Un successo basato su luci e ombre, un modello imprenditoriale che gioca su un'elevata decentralizzazione, il cosiddetto modello franchising. Secondo Giuliano Santoro, giornalista, una vera e propria contraddizione all'interno della globalizzazione capitalista. McDonald's rappresenta una contraddizione all'interno della globalizzazione capitalistica, proprio innanzitutto per il suo aspetto di franchising, cioè per il suo aspetto di, l'aspetto che riveste l'esportare marchi utilizzando le caratteristiche, le potenzialità produttive e sociali di un territorio e ricoprendole con un proprio marchio. Dall'altro lato McDonald's è emblematico del modello di produzione post-fordista, perché l'idea di McDonald's, il signor McDonald's di 50 anni fa, è quello di far abolire i camerieri, far portare il cibo a tavola dai clienti e non solo, quindi tagliare un costo e non solo fare questo, ma convincere le persone che tagliare questo costo vuol dire dare più libertà al cliente, far scegliere veramente al cliente cosa vuole mangiare. Questo a mio parere assomiglia molto al modello produttivo attuale, cioè dare un'idea di autonomia, di quasi autogestione della propria forza lavoro, per poi invece asservirlo ancora di più. Amigo mio, non notas un gusto amargo quando rosa su bocca. Quotato presso le borse di New York, Midwest, Pacific, Toronto, Francoforte, Parigi, Tokyo, Zurigo, Basilea e Ginevra, nel 1998, durante le proteste di Seattle, McDonald's diventa l'emblema della selvaggia globalizzazione neocapitalista. L'anno successivo la catena apre una media di 5 ristoranti al giorno. Le critiche al suo modello di sviluppo però sono ancora legati a caratteri controculturali. Ancora Santoro. Prima di Seattle diciamo che McDonald's è presente, la critica a McDonald's è presente all'interno diciamo, dell'agenda dei movimenti, però più con caratteri diciamo controculturali, cioè il nome del vegetarianesimo, di tematiche più di nicchia. Mentre invece il movimento di Seattle si occupa di temi come la lotta alle biotecnologie, ma anche di temi più generali come la qualità della vita, la qualità del lavoro. E quindi la lotta contro McDonald's, contro ciò che rappresenta McDonald's, esce dall'underground e dall'aspetto più controculturale e diventa una lotta propriamente politica, insomma. Hamburger happy clown, a McDonald's drive-in restaurant. is his favorite place in town. Proprio il modello di alimentazione all'americana a essere messo sul banco degli imputati, un modello che crea obesità e sul quale anche il governo statunitense è chiamato a ricorrere ai ripari. Esce proprio in questi giorni nelle sale un film documentario di denuncia contro il modello McDonald's. Si chiama Supersize Me ed è promosso dall'associazione Slow Food. Ascoltiamo il suo vicepresidente Pietro Sardo. La tesi è che il modello alimentare americano sin dalla scuola è un disastro e le sue conseguenze sulla salute dei cittadini e quindi anche sui costi pubblici della sanità negli Stati Uniti sono arrivati a un livello disastroso. È il ministro della salute americano che parla proprio nel film di epidemia di obesità, senza contare tutte le altre malattie che sono collegate ai problemi di cattiva alimentazione. E l'associazione Slow Food fa da eco alla Federconsumatori. Secondo il suo presidente, Rosario Trefiletti, il modello McDonald's è quanto di più lontano ci sia dalle tradizioni e cucine italiane. Il metodo McDonald's, del fast food, è quanto di più lontano ci sia nelle abitudini e quello che dovrebbe essere anche l'abitudine della cucina e del consumatore italiano. E quindi sì, è un'ingombrante signora, certo, se rappresenta solo un segmento del mercato che può essere utile al consumatore quando non può fare a meno di fare uno spuntino veloce, beh, questo può andare bene, ma certamente non può sostituire le tradizioni, i sapori, la cucina italiana che oltretutto deve sempre di più essere primeggiare nel mondo. Mazze zuzzerina, gli americano, maccherone. M'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne mangio. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù, invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit, guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. Le cose però cambiano e alla critica controculturale della fine degli anni 90 si associano contestazioni legate alla modalità di gestione del lavoro. Invece di favorire contratti di lungo periodo, la catena propone rapporti di lavoro part-time e cambi del personale che si succedono anche 3 volte in un anno. Come denuncia Abdel Mabrouki, uno dei portaparola del movimento contro la precarietà in Francia, che raccoglie lavoratori di McDonald's, Pizza Hut e altre reti commerciali globalizzate. Dans une seule année, on change 3 fois l'effectif. In un solo anno il personale viene cambiato 3 volte. Si tratta di un modello che le altre imprese vorrebbero imitare. Il salariato usa e getta, il salariato Scottex. È un simbolo della precarietà, con dei contratti molto bassi, al di sotto del salario medio orario. Queste imprese preferiscono avere molti lavoratori part-time per maneggiarli meglio e sbarazzarsene quando non ce n'è più bisogno. Il salariato usa e getta dunque, come testimonia anche Antonio, uno dei tanti ragazzi che ha lavorato sotto i 2 archi dorati. Ho incominciato prima in cucina, però lì diciamo non sono ruoli fissi in quanto la loro politica è quella di far ruotare un po' il personale in tutte le mansioni, quindi anche cassa e pulizia. Diciamo che lì io ho fatto un part time, perché ovvero 4 ore al giorno per 6 giorni su 7 a settimana. Però nonostante questo erano 4 ore molto molto pesanti, perché lì non c'era un minuto di pausa, era 4 ore tirate al massimo. Un lavoro tra l'altro con qualche effetto collaterale. Una puzza insopportabile e non ti nascondi che quando tornavo a casa a lavare la divisa, quindi il pantalone, la camicia, il berretto, non era sufficiente un solo lavaggio, perché restava quel cattivo odore per diverso tempo, prevalentemente sui vestiti, comunque pure sui capelli. I've got one hungry kid. That's me. And the more he grows, the more his appetite Mom. Takes control. Mom, I need more food. See what I mean? The answer is McDonald's new McMega Happy Meal, with the choice of a double hamburger, double cheeseburger, or 6-piece chicken McNuggets, fries, and a drink. It'll satisfy the most ferocious appetites. That was good. Hey, where's my toy? Oh, there it is. And all McMega Happy Meals now come with Disney's 102 Dalmatians toys at participating McDonald's for a limited time. Você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí, porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Per neutralizzare gli aspetti negativi sedimentati sulla sua immagine, McDonald's ha lanciato in tutto il mondo campagne di comunicazione per rifarsi il trucco. Anche in Francia, secondo Abdel, che però ribadisce come, nonostante il maquillage, la lotta sindacale alle multinazionali dell'hamburger continui. McDonald's vuole rifarsi un'immagine di verginità per farsi dimenticare per un po'. Noi però continuiamo a mantenere in vita la lotta ogni giorno nei McDonald's e Pizza Hut. C'è già una presenza sindacale qui in Francia che persiste ed è riuscita a ottenere dei delegati un po' dappertutto, che tentano di far applicare le leggi e di avere un contropotere rispetto alla multinazionale che schiaccia le persone. È vero che McDonald's lavora molto sulla comunicazione, ma anche noi ci lavoriamo cercando di rompere la loro immagine da clown di McDonald's. Segnali positivi che arrivano anche in Italia, secondo Rosario Trefiletti della Federconsumatori. Certo, se McDonald's vuole mettere sul mercato prodotti di migliore qualità e di maggiore informazione, come effettivamente risulta anche a noi stia facendo, soprattutto la McDonald's italiana, beh, questo è un fatto positivo che dà una risposta alle battaglie giuste che noi come consumatori abbiamo fatto. Dal 2001 in poi, data del G8 di Genova, il diritto dei lavoratori sembra dunque essere anche in Italia il tema portante delle contestazioni a McDonald's, come sottolinea ancora Giuliano Santoro, giornalista di Carta. Tutta la fase che finisce a Genova di contestazione alla globalizzazione capitalistica è una fase di contestazione del logo vero e proprio McDonald's. Oggi, se dobbiamo pensare, per tornare alla domanda iniziale, a come ci si contrappone a McDonald's, in che modo ci si rapporta a questo logo, possiamo dire che non ci si rapporta come di fronte a un logo, ma ci si rapporta come di fronte a un'entità produttiva che sta all'interno delle metropoli. Tra qualche settimana ci sarà la May Day. Nella May Day dell'anno scorso di Milano il McDonald's fu colpito da un'azione di sabotaggio e di sanzione dal basso da parte dei manifestanti, con tematiche che più che quelle della lotta alla biotecnologia per una migliore qualità del cibo e della vita erano di lotta allo sfruttamento del lavoro precario. E in Francia, per arrivare preparati al tavolo delle trattative, il movimento contro la precarietà organizza dei veri e propri corsi di diritto al lavoro. Le lutte sono isolate, très peu de salariés cachés. Le lotte sono isolate, sostenute da pochissimi dipendenti che rimangono nascosti. Noi cerchiamo di rendere pubbliche queste lotte, tentiamo di mobilitare i movimenti e portiamo un aiuto con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Non abbiamo sovvenzioni né altro. Un'altra cosa che facciamo sono i corsi gratuiti di diritto del lavoro, tutti i lunedì a Parigi, per dare ai lavoratori le informazioni necessarie ad autotutelarsi. Si tratta di educazione popolare, dare informazioni sui codici del lavoro perché i salariati si auto-organizzino e si difendano. Is his favorite place in town. Mazzetto, Celia. Big Mac, mezzo secolo di hamburgers e precarietà. Un programma realizzato da Amisnet. In redazione Lorenzo Nania, Leopoldo Calabria, Andrea Cocco e Francesco Di Asio.